Benvenuti signore e signori, umani e non. Benvenuti su Radio H2O, piano terra. La frequenza futile che contiene e trasmette utopie, stati d'animo, comprensione. La frequenza umana che non fa politica disumana. La frequenza che cerca l'essere vivente. Stupido, stupito, ingenuo, condannato. Comunque da perdonare, ascoltare. Oddio, svengo. Niente. È passato subito l'ennesima crisi di identità. Aiuto, stai male. Insoddisfatto. Sintonizzati su Radio H2O, piano terra. Terra, terrore, sole. Ma è mai possibile avere paura del sole, il caldo, il cielo azzurro? Forse la frequenza che cercavi o che snobberà. Certo, Radio H2O, piano terra, non ti mancherà di rispetto. Non ti riempirà l'anima di attacchi di panico. Non ti farà perdere la fiducia in te stesso. Non ti farà sentire una brutta persona vuota e insensibile. Dedicato ai consigli. Radio H2O Piano Terra e la nuova onda alternativa vi consigliano di non rubare mai, specialmente a saponette. Siete onesti, vi può cambiare la vita.